Effetto Mondo. Comparing the Gilead drug remdesivir with a placebo, it was highly powered with about 1,090 plus individuals. E con la voce del super esperto americano Fauci diamo il buongiorno come sempre a Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao Alessio, buongiorno. Sì, che stava dicendo? Anthony Fauci è, ieri tra l'altro è, secondo me anche il linguaggio del corpo e come si posizionano adesso quando i membri della task force quando parlano in pubblico è interessante, non va più al podio, allo scranno, è rimasto seduto vicino alla dottoressa Birx che è l'altra grande esperta della task force e per la prima volta gli ho sentito dire, perché Anthony Fauci ha sempre, come si dice in inglese, downplayed, cioè ha cercato di calmare gli entusiasmi per i vari farmaci che venivano proposti da Donald Trump, farmaci e non solo, come sappiamo. Questa volta ha annunciato ufficialmente i risultati di questo studio fatto a doppio cieco, cioè con il placebo, come ha detto lui, e su più di 100 pazienti ci sono stati degli effetti molto chiari. Questo remdesivir era un farmaco antivirale messo a punto per l'Ebola, che però per l'Ebola ha funzionato malissimo. Il risultato immediato di queste dichiarazioni di Fauci è che i titoli dell'azienda che lo produce sono schizzati a Wall Street, ma a parte questo risultato economico, portandosi dietro altri titoli del settore. Al di là di questo è uno studio in fase molto avanzata, perché come ha spiegato Fauci e come spiegano bene i giornali americani oggi, in particolare il New York Times sulla parte diciamo medica e il Wall Street Journal per la parte più finanziaria, siccome sono farmaci che erano già stati approvati appunto e poi risultati non efficaci, in questo caso per l'Ebola, il processo per passare proprio a una somministrazione su larga scala potrebbe essere molto più veloce. Fauci ha anche spiegato, e questo perché mi ha fatto davvero impressione la testimonianza di ieri del ragazzo giovane che è rimasto in coma farmacologico, si è risvegliato praticamente in un altro corpo, questo per far capire quali sono gli effetti della terapia intensiva prolungata. E in questo caso insomma, l'effetto è di miglioramento dei sintomi da Covid-19 è molto veloce, cioè si vede proprio una grande differenza tra quelli che hanno avuto il remdesivir e quelli che hanno ricevuto il placebo. È uno studio internazionale, tu parlavi prima appunto di come in questo momento ci si scambi studi e ricerche anche attraverso gli oceani, certo. E quindi anche Fauci, che ha alle spalle tutta la sua carriera di tentativo di trovare una cura o un vaccino, che attualmente comunque continua a non esistere, per l'HIV o per l'Ebola, diceva: è la prima volta che mi capita di partecipare, di anche guidare in un certo senso uno studio così internazionale, quindi insomma un po' di ottimismo ecco sul fronte della cura. Poi in realtà i giornali americani ovviamente sull'altro fronte che non abbiamo nominato, quello economico, aprono su questo dato impressionante che è il meno 4,8 del PIL per cause direttamente legate al lockdown, quindi questo per gli Stati Uniti, e naturalmente per un'economia con un PIL da 18 trilioni, un calo del 4,8%, insomma ormai è quasi pari al pacchetto di stimoli, quindi è veramente una situazione con dei numeri che si fa anche fatica a mettere sulla carta, direi. E poi ieri c'è stata l'azione la Federal Reserve ha lasciato i tassi invariati, però ha detto che insomma, sono pronti a qualunque intervento. Intanto la BCE ha deciso, scusa, leggo solo questa agenzia perché è caduta proprio in questi istanti, la BCE ha deciso di tagliare di 50 punti base i tassi di interesse, il titolo Francoforte lancia una nuova serie di operazioni di rifinanziamento per l'emergenza pandemica, lo comunica la BCE. Vai Giulia, vai. No, dicevo che ci siamo un po' dimenticati delle elezioni, e quindi da una parte elezioni americane, quindi sui giornali americani oggi ce lo siamo anche persi un po' noi, si torna sugli endorsement eccellenti che stanno arrivando, tra cui quello di Hillary Clinton che è arrivato due giorni fa durante una sorta di convention online, un lungo collegamento con Joe Biden, ma in realtà il New York Times, meritoriamente, perché sicuramente tifa per Joe Biden, però dà notizia di questo di queste accuse di molestie sessuali che si stanno moltiplicando per Joe Biden. Risalgono a molti anni fa, non sono del tutto provate, però intanto gettano un'ombra sulla campagna da qui a novembre. Tra l'altro, molti analisti dicono che come peraltro in tantissimi altri paesi e in tantissime altre consultazioni dell'ultimo anno, la differenza la faranno gli indecisi e quei famosi swing states, cioè addirittura sono gli stati che sono sempre oscillanti tra un partito e l'altro. E secondo questi analisti bisognerà appunto vedere se nei prossimi mesi, quando inizierà seriamente la fase 2 anche per gli Stati Uniti, anche se Donald Trump non l'ha mai chiamata così, ci saranno degli effetti concreti di queste misure. Se vuoi un ultimo punto economico, sì, perché ci leghiamo un po' anche a quello che sta succedendo, tu dicevi gli aiuti che anche la Germania si appresta ad aumentare. Negli Stati Uniti lunedì è iniziato un secondo click day, chiamiamolo così, su questo sito per gli aiuti riservati alle piccole e medie imprese. Una difficoltà, oltre al fatto che non è così facile averli, ma questo di questo abbiamo già parlato, siccome c'è la condizione che questi aiuti vengano erogati a chi poi si impegna a riassumere entro il mese di maggio, massimo giugno, e molte piccole aziende stanno dicendo preferiamo non prenderli questi soldi in prestito perché noi non abbiamo alcuna certezza che poi a giugno potremo riaprire e riassumere. Questo vale soprattutto per i ristoranti, che anche quando riapriranno sappiamo avranno meno, la metà, forse anche meno, dei clienti, della possibilità di accogliere clienti. Quindi insomma non è facile per nessuno, ecco, come ci siamo detti tante volte, si può criticare qualsiasi tipo di provvedimento, però non è facile farli in modo che siano efficaci e che veramente raggiungano lo scopo per il quale sono stati pensati. Senti Giulia, dove ci porti? Ancora su cronache di coronavirus, Cina che tenta la ripartenza, Europa, poi c'è anche il Brasile con il movimento di Bolsonaro, che però non ha a che fare tanto col coronavirus. Sì, se vuoi la Francia ha un po'... Io ieri ho preso la metropolitana, ho visto che qui a Milano ci si sta attrezzando, ma la metropolitana che ho preso oggi in realtà non era ancora tutta predisposta con gli adesivi per il distanziamento. E Le Figaro proprio ha una foto di una persona da sola su un vagone della metropolitana parigina e il titolo è La grande sfida dell'11 maggio, perché l'11 maggio riaprono soprattutto le scuole, riaprono tantissimi uffici in Francia e anche lì bisogna che il trasporto pubblico si adegui. Tra l'altro in Francia, ma anche in Spagna, anche in Scozia, stanno nascendo, ma anche per Milano se ne è parlato, nuovi servizi di bike sharing, ma anche addirittura delle piste ciclabili pop-up, tema ideale pop-up? Per si può fare. Che vuol dire cioè pop-up? Che vengono fatte in modo molto veloce, cioè anche sì, qui bisogna naturalmente aggirare un po' le norme che prevedono tutta una serie di stanziamenti e che possono, tu lo sai meglio di chiunque altro credo, per appunto tutti gli approfondimenti che avete fatto, sì, si può fare solo in alcune zone della città di una certa lunghezza. Invece si prevede, soprattutto in Scozia, di allargare le maglie di queste regole per poter fare delle piste ciclabili anche in centro, per appunto incentivare l'uso della bicicletta. In sostanza disegnando strisce per terra, spostando un po' le macchine, facendo spazio senza rispettare tutti i criteri. E forse chissà che questa non sia la volta buona che invece si ottiene un risultato che altre volte, altrove, con le piste ciclabili quelle vere, non si è ottenuto, perché poi farle è costoso, ci vuole tempo, invece qui si sarà più veloci e dinamici. Certo. Giulia, ancora? Sì, sempre in Francia insomma c'è molta preoccupazione non soltanto per le compagnie aeree ma per tutto il settore, in particolare per Airbus, che sembrava prendersi una grande rivincita, no, sulla Boeing, i rivali di sempre, gli americani, perché erano in crisi per il 737 Max, quel modello che non poteva più volare né essere prodotto perché non veniva considerato non sicuro, però anche Airbus adesso è in crisi. Quindi sulla prima pagina di Le Figaro anche questa idea probabilmente di varare, come succederà probabilmente negli Stati Uniti, un piano ad hoc per le compagnie aeree. Mentre dicevi della Spagna, in Spagna ho trovato curioso questo, innanzitutto anche lì le autonomie, che sono l'equivalente delle nostre regioni, ce ne sono ben 7 che hanno detto noi non ci stiamo a questo piano generale di Sanchez, noi vogliamo, a seconda dei dati dei nostri, addirittura dei singoli, proprio dei singoli paesi, dei singoli conglomerati urbani, decidere quando riapre e chi riapre. Quindi anche qua torna il tema, insomma, dei governi regionali che vogliono più autonomia. Ma poi ho trovato interessante su El País la notizia che in Cina, tutto sommato, nonostante si abbiano molti dubbi sui dati che ci hanno fornito finora, è stato convocato l'Assemblea Nazionale del Partito Comunista, vuol dire per il 22 di maggio, vuol dire 3.000 persone in un luogo chiuso, non credo Ai particolarmente ai ai. distanziati. Quindi non lo so, da una parte vuol dire forse che effettivamente non hanno più paura, perché convocare un'assemblea del genere con cinesi che arrivano da tutto il Oppure sono paese. degli incoscienti, che ci sta anche Esatto. in questo momento almeno. Giulia, No, se abbiamo grazie. ancora. Scusami, solo Bolsonaro. No, Sì, la sì. diamo solo la notizia che appunto Bolsonaro ha licenziato anche il suo ministro della giustizia, che tra l'altro era già molto discusso. E il signor Moro se n'è andato dicendo che Bolsonaro è un furfante testuale. Brasile 2020 è questo. Brasile. Grazie Giulia. Domani non siamo in onda, ci risentiamo lunedì prossimo. Oggi un ringraziamento a Filippo Regi in regia, Elisabetta Fuscoli in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, ed Alessio Maurizi. Ciao.